I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. L'accordo per evitare il tracollo della Grecia e la sua uscita dall'unione monetaria alla fine è arrivato sul filo di lana, insomma. Ma di questione greca sentiremo ancora parlare per molto tempo. È importante capire che l'intesa raggiunta ieri mattina tra i leader europei sulle condizioni e sulle richieste alla Grecia non rappresenta il punto di arrivo, ma al contrario il punto di partenza di una trattativa che ha come obiettivo la concessione di un nuovo piano di aiuti ad Atene, un nuovo piano che dovrebbe seguire quello del 2010 e poi quello del 2012. L'accordo in pratica, per diventare operativo, ha bisogno di ulteriori passaggi. La Grecia, in primo luogo, che dovrà impegnarsi in tempi strettissimi ad approvare alcune riforme richieste dall'Europa, l'aumento dell'IVA, la riforma delle pensioni, i tagli alla spesa in modo semiautomatico. A seguire, il Parlamento di Atene dovrà fare molte altre cose, ma entro i prossimi 2 giorni queste misure dovranno obbligatoriamente arrivare al traguardo. Solo a questo punto la BCE, il Fondo Monetario e la Commissione Europea cominceranno a negoziare un nuovo programma di aiuti che, come sappiamo, ha un valore compreso tra gli 82 e gli 86 miliardi di euro in 3 anni e che dovrà poi essere approvato dai governi e a volte anche dai parlamenti europei, come nel caso della Germania. Nel frattempo alla Grecia verrà concesso un prestito ponte per far fronte alle scadenze prossime legate alla restituzione dei vecchi prestiti. 12-13 miliardi da qui a metà agosto. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La notizia principale di oggi è sicuramente l'accordo sul nucleare tra l'Iran e i paesi del 5+1, vale a dire gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Una notizia che ha una valenza politica e che apre nuovi scenari a livello geopolitico. Ma oltre, diciamo, a questa importanza è giusto ricordare che uno degli effetti principali dell'accordo è rappresentato dall'azzeramento delle sanzioni economiche imposte all'Iran, sanzioni che verranno appunto eliminate. Ecco, tutto ciò apre nuove prospettive anche per l'Italia, che peraltro ha sempre mostrato un certo attivismo nei rapporti con Teheran. I numeri dell'Iran ne fanno un mercato con grandi potenzialità di crescita: 77 milioni di consumatori, un PIL che vale 370 miliardi di dollari. Il ritiro delle sanzioni potrebbe portare un incremento del nostro export di quasi 3 miliardi di euro nei prossimi 4 anni. I settori con maggiori opportunità saranno quello dell'oil and gas, dell'automotive, la difesa, i trasporti e naturalmente tutto ciò che è legato alle costruzioni. Poi c'è il versante energetico: petrolio e gas iraniani valgono rispettivamente l'11 e il 18% delle risorse mondiali. Le nostre aziende come Eni e Saipem avevano sviluppato importanti progetti e il ritorno dell'Iran sulla scena internazionale sarebbe ora un'opportunità preziosa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.